Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 16 marzo 2014, la 161esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. I giorni del mese di marzo di quest'anno la trasmissione Restiamo Animali ha compiuto 2 anni di messa in onda. Non abbiamo trovato l'occasione per festeggiare, ma rimediamo subito facendovi ascoltare il jingle del nostro secondo compleanno. Restiamo Animali! Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3. Restiamo Animali! Enzo Maiorca, Restiamo Animali? Decisamente sì, Restiamo Animali. Jill Robinson, Restiamo Animali? Restiamo Animali, Remain Animals. Onorevole Andrea Zanoni, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Io mi chiamo Simone Salvini, Restiamo Animali. Professore Antonio De Marco, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Sindaco Gonzales, Restiamo Animali? Certo, Restiamo Animali. Fulco Pratesi, Restiamo Animali? Dobbiamo restare animali, avvicinarsi quanto più possibile alla schiettezza, all'onestà e alla bellezza e alla lealtà degli animali. Sonny Ricchichi, Restiamo Animali? Sì, Restiamo Animali. Davide Battistini, Restiamo Animali? Restiamo Animali, Restiamo Animali. Gianluca Felicetti, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Ken Spector, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Professor Gianni Tamino, Restiamo Animali? Certo, e dovremmo essere contenti di esserlo. Professore Sack, Restiamo Animali? Certo, Restiamo Animali, siamo animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Nella puntata di oggi, per la rubrica Visti da vicino, che dedichiamo a incontri ravvicinati con altri animali, abbiamo una nuova esperienza, quella dei racconti di resistenza animale, cioè casi di individui sottoposti a situazioni di oppressione, di prigionia, che in qualche modo cercano di ribellarsi, in qualche caso riuscendoci, in altri no, e spesso incontrando la solidarietà di individui della nostra specie. La prima storia che vi proponiamo è quella della mucca Maxine. Roberta Marino poi ci proporrà un servizio sulle cosiddette specie nocive, ammesso che possa esistere una nozione di questo genere, probabilmente non esiste, a partire da un convegno che si è tenuto a Milano. Per le perle agli umani, Francesca De Matteis ci racconterà la vicenda di Smilla Sidecar, questo viaggio per l'Italia condotto in Sadiecar da un individuo umano e un individuo animale, una storia tutta da scoprire. Gabriele Palloni ci darà qualche insegnamento nella rubrica Il Pasto Gentile su come utilizzare gli avanzi del giorno prima, una strada da un punto di vista culinario sempre molto interessante per chi provvede da sé alla propria alimentazione. Infine, il professor Luigi Lombardi Vallauri, nella sua rubrica Sostiene Vallauri, ci parlerà di compassione a partire da un caso di cronaca di questi giorni. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. La gente ama le storie a lieto fine, racconta una voce narrante nel video, e questa lo è. Mi chiamo Maxine e sono una mucca. E siccome sono una mucca, anch'io, come altre mie compagne, ero destinata al macello. Ma io sono riuscita a scappare da quell'inferno. Sono finita nelle strade del Queens. Ero terrorizzata e ho corso a lungo, finché polizia e pompieri mi hanno presa e portata all'Animal Care Control di Manhattan. Mi hanno fatto tante foto, tutti mi guardavano, mi volevano toccare, non so perché. Poi da lì mi hanno portata al Farm Sanctuary, un posto bellissimo. Qui ci sono tante altre mie compagne che mi hanno accolta salutandomi, ma ci sono anche persone che si prendono cura di me. Adesso per loro io non sono una mucca, sono Maxine. Oggi nel Farm Sanctuary ho visto il prato per la prima volta nella mia vita. Profuma, è morbido, è meraviglioso. Ho iniziato a correre, sì, ho corso davvero, in preda a una gioia pura e immensa. Ora sono felice, posso vivere. Maxine corre verso la vita, corre verso la libertà. Così finisce la storia di Maxine, una storia come la gente vuole, a lieto fine. È curioso vedere il comportamento delle persone quando un singolo animale scappa per salvarsi, commenta ancora la voce narrante. Le crudeltà che subiscono gli animali d'allevamento sono accuratamente nascoste e la gente ne è inconsapevole. Ma quando guarda un animale negli occhi, vuole il meglio per lui. Quando lo conosce ed è capace di immedesimarsi con un individuo, allora gli si scioglie il cuore. La storia dell'evasione di Maxim è particolarmente importante, ci fa notare come, contrariamente a quello che siamo abituati a pensare, in realtà gli animali spesso fuggono, evadono dalle situazioni di sfruttamento. Quando questi episodi arrivano sui media locali di solito, ma anche su quelli nazionali, di solito vengono raccontate come elementi di folklore, come storie buffe, bizzarre, come delle specie di aneddoti, senza accoglierne il significato politico di vera e propria ribellione allo sfruttamento da parte degli individui che lo soffrono, che ne sono fatti oggetto. E in questo caso invece la storia ha evidenziato una serie di elementi, tra cui bellissimo il fatto che Maxine sia stata in grado di cambiare letteralmente le coscienze, cioè di parlare col suo atto, con la sua fuga, letteralmente delle persone. In un video che è girato su internet in America su questa storia c'è la storia di una volontaria del rifugio che all'inizio, diciamo, dell'Animal Care and Control, che ha accolto in prima istanza la mucca, la quale questa volontaria, trovandosi a contatto con Maxine, ha realizzato per la prima volta, lo dice, lo spiega molto bene, il collegamento tra quella persona che si trovava di fronte, quell'animale che si trovava di fronte, il suo sguardo, il suo desiderio di vivere, eccetera, e la fine che avrebbe fatto, e quella situazione generalizzata di miliardi di animali rinchiusi negli allevamenti che poi diventeranno bistecche. Questa ragazza è diventata da quel giorno vegetariana, lei con tutta la sua famiglia, e la cosa interessante è che ne ha fatto non solo un elemento di cambiamento personale, ma qualcosa di più, cioè un elemento di testimonianza all'interno della società in favore degli animali rinchiusi negli allevamenti. Fa venire in mente una storia italiana abbastanza simile per certi versi, che è quella della mucca Teresa, di cui si era parlato un po' di tempo fa, che è scappata e ha cercato di attraversare lo stretto di Messina. Là, come dire, anche la particolarità di questo gesto eclatante ha convinto chi l'aveva, la ragazza che l'aveva soccorsa, a mobilitarsi per trovarle una sistemazione, un rifugio, e quindi anche in quel caso c'è stato un umano, tra l'altro anche qui la ragazza è diventata vegetariana, c'è stato un umano che si è mobilitato, ha mostrato solidarietà e ha potuto far finire bene la storia, perché in entrambi i casi, come anche nel caso della mucca Maxine, abbiamo l'individuo che cerca di scappare e con la solidarietà umana riesce a portare a termine la sua opera di ribellione. Una parola che infatti emerge in questo, che dà proprio il significato politico della ribellione degli animali, che emerge nel video diffuso in America riferita a Maxine, è quella di ambasciatrice, cioè è un'ambasciatrice per i diritti, per la vita di tutti quegli altri animali che sono reclusi negli allevamenti per la carne, per il latte. Interviste, attualità. Da questa puntata, la rubrica Visti da vicino racconterà le storie tratte dal blog Resistenza Animale. Il blog è nato dalla collaborazione e dall'idea di diversi attivisti e raccoglie le storie di animali che hanno deciso di ribellarsi alla violenza e alla schiavitù quotidiana, lottando per la loro vita o anche a rischio della vita stessa, anche solo per un breve istante di libertà. Ribellioni, evasioni, fughe messe in atto dagli schiavi non umani. Prigionieri che si ribellano alle condizioni di sfruttamento imposte nei mattatoi o negli allevamenti, nei circhi o negli zoo. Vicende o testimonianze narrate spesso in maniera sommaria o sensazionalistica dalla cronaca, ma che noi vi vogliamo raccontare per cercare di dare una voce, un'identità a coloro che di solito consideriamo solo vittime o soggetti passivi e che invece sono compagni attivi nella lotta per la liberazione animale. Tra le tante ci sono la storia di un elefante ribelle, dei maialini che invadono una superstrada, del polpo che evade dal peschereccio, delle galline in fuga dal camion, della furia degli asini contro i loro sfruttatori e della mucca Maxine che riesce a sfuggire al macello e con la quale inauguriamo questa prima puntata. A dare voce alle loro storie saremo noi della redazione di Restiamo Animali, mentre gli ideatori del blog Resistenza Animale ci offriranno un'analisi e un commento di queste vicende, spiegandoci come dietro questa ferma volontà di autoliberazione ci possa essere un modo diverso di vedere gli animali non umani, anche in una prospettiva antispecista. Ecco quindi Resistenza Animale, storie di schiavi ribelli. Don't Alieni sulla propria terra. Potrebbe essere il titolo dell'ultima pellicola di fantascienza di Steven Spielberg. E invece è quello del convegno organizzato dalla LAV lo scorso 7 marzo a Milano. Qui però non si è parlato di extraterrestri, ma di animali considerati comunque alla stregua di invasori. Scoiattoli grigi, tartarughe dalle guance rosse, pesci siluro, ma anche le contestatissime nutrie sono solo alcune delle specie non indigene accusate dall'uomo di aver invaso i territori nostrani e di causare presunti danni. E proprio la nutria è la protagonista di The Invasion, il cui trailer è stato presentato in occasione del convegno. Un documento d'inchiesta che punta i riflettori su questo animale, dimostrando come la convivenza serena con l'uomo sia invece possibile. Per contenere, usando a dir poco un eufemismo, la presenza di questi presunti alieni, sono state messe in atto spesso misure drastiche, come in primis l'abbattimento generalizzato. Misure che, oltre a essere cruente, si sono rivelate perfino controproducenti. Di pratiche efficaci, alternative e soprattutto cruelty free, invece hanno parlato all'interno del convegno alcuni studiosi. Tra di loro la dottoressa Giovanna Massei, ricercatrice e collaboratrice allo studio sulla sterilizzazione dei cinghiali tramite il vaccino Conacon, e il dottor Mauro Ferri, esperto nell'uso della nicarbazzina per il controllo della fertilità dei colombi. Li abbiamo raggiunti in una breve pausa del convegno per alcune domande. Sentiamoli. A entrambi volevo fare questa domanda: quali sono le tecniche più avanzate tra quelle non cruente per il controllo della fauna selvatica e in particolare su quali animali in quali città e paesi vengono utilizzate in base alla vostra esperienza o dei vostri colleghi nel lavoro che state attuando? Vuole iniziare il dottor Ferri? Sì, in Italia abbiamo già un farmaco veterinario che è disponibile in uso dal 2002 sul colombo ed è un farmaco a base di carbazzina che è utilizzato nell'ambito di un progetto di gestione integrata del colombo, permette di ridurre la quantità di soggetti presenti nelle colonie critiche di colombo urbano. Questo prodotto è stato utilizzato ed è in uso in parecchie città, non gode di molti favori da parte di certo approccio ufficiale alla gestione delle specie problematiche, però è già una disponibilità concreta. Non gode di molto supporto, per quale ragione? Perché evidentemente ci sono dei metodi di gestione preferiti rispetto a questo e sono nell'ordine soprattutto le catture per il trasporto, per la detenzione a lungo termine, le catture per scopo di ricerca, soppressione, eccetera eccetera, in ambito urbano, perché chiaramente in ambito rurale viene visto molto più pratico e conveniente l'uso dell'abbattimento diretto, però in ambito urbano gli altri sistemi evidentemente sono preferiti. Non ci sono altre disponibilità di farmaci registrati per il controllo della fertilità in Italia. È stata fatta una proposta dal mio gruppo e anche dall'associazione che l'ha condivisa, la LAV, di intervenire su un caso studio emblematico che sono i daini del Bosco della Mesola per ridurre la loro quantità, invece che solo con gli abbattimenti, quantomeno anche con un progetto di utilizzo di un immunocontraccettivo che è già disponibile in uso negli Stati Uniti e che ha già dimostrato in situazioni ridotte, isole, recinti, di funzionare molto bene, e sarebbe proprio il caso del Bosco della Mesola per salvare i daini da se stessi, il Bosco della Mesola dai daini e soprattutto il cervo endemico dai daini. Dottoressa Massei? Ho lavorato soprattutto sugli immunocontraccettivi, che sono vaccini che rendono un animale sterile per un periodo di anni che dipende dalle specie e che varia da 1, 2 fino a 7, 8 anni. Questi vaccini, come diceva il dottor Ferri, sono stati messi a punto negli Stati Uniti e registrati come farmaci contraccettivi negli Stati Uniti e sono stati utilizzati sia in prove di ambiente controllato, quindi in cattività, sia in studi di campo su moltissimi animali. Io nella mia relazione a questo convegno ho fatto esempi su cervi, cinghiali, opossum, cavalli, ci sono una serie di animali, gatti anche, bovini, ferali, mucche, quindi una serie di animali su cui questi vaccini hanno funzionato molto bene. Sono prodotti che si devono iniettare, quindi è necessario catturare un animale, quindi c'è una spesa da considerare, e chiaramente sono molto più efficaci se le popolazioni animali che si vogliono controllare sono isolate. Ci stiamo lavorando in Inghilterra come nel resto del mondo, e ci stanno lavorando anche ora varie industrie farmaceutiche che si sono rese conto che potrebbe essere un prodotto da utilizzare in diversi campi. Oltre all'Inghilterra sono stati citati altri paesi che sono interessati a questo tipo di gestione, ce li vuole citare nuovamente? Sicuramente noi siamo in un network di gruppi di ricerca, tutti collegati, che si occupano di gestione della fauna selvatica tramite il controllo della fertilità. Ci sono gli americani che hanno vari gruppi di ricerca, ci sono gli australiani e i neozelandesi, c'è un gruppo in Sudafrica e emergono ora alcuni gruppi nel sud-est asiatico che hanno problemi simili e che cercano di risolvere in modo non cruento problemi di sovrabbondanza di animali, di specie problematiche. Lei sta lavorando tra l'altro anche alla questione dei cinghiali nel Parco della Maremma. A questo proposito volevo chiedere a entrambi se ci sono state, diciamo, figure istituzionali, assessori, altre figure simili che vi hanno, come dire, commissionato questo tipo di gestione. Sì, il Parco della Maremma ha avuto un'idea che direi lungimirante, nel senso che anche se questi vaccini non sono disponibili come vaccini orali, il Parco della Maremma si è chiesta assieme a noi se i vaccini orali fossero disponibili, potremmo proporre un progetto che impiega l'utilizzo di questi vaccini, quindi come facciamo a dare questi vaccini a cinghiali e a cinghiali e basta, quindi non a altre specie. E in questo senso il dottor Andrea Sforzi, che è anche il direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, è stato fondamentale, assieme al dottor Ferri, che ha condotto poi il lavoro di campo per valutare la potenzialità del BOSS, di questo sistema messo a punto per fornire esche ai cinghiali. Come ripeto, le esche non avevano vaccini perché i vaccini orali non esistono, però come sistema io lo vedo molto utile, non solo per la contraccezione, ma per esempio per fornire esche che hanno vaccini contro varie malattie che i cinghiali possono portare, quindi ci sono anche ricadute in altri campi che possiamo utilizzare. Come si fa già per le volpi, ad esempio, la vaccinazione antirabica delle popolazioni di volpi viene fatta con distribuzione aerea di esche che contengono il vaccino, una strada che tiene legati questi mondi per la gestione del benessere animale con l'immunocontraccezione, ma anche del benessere delle comunità umane e animali che convivono e che vogliono difendersi reciprocamente dalle malattie, è una chiave di lettura secondo me molto importante, che suggerisce di cominciare a stare un pochettino più lontano dalle solite soluzioni utili contingentemente, ma anche necessariamente anche approssimative nella prospettiva. La drasticità, sai, può essere un requisito buono in certi momenti, però spesso vediamo della drasticità inutile senza risultati, guardate la mesola, insomma. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oggi abbiamo un ospite, anzi in realtà due, che hanno davvero una bellissima storia da raccontare. Si tratta di Paolo Susanna, autore di Sidecar Smilla, Viaggio nell'Italia dei cani abbandonati, edizione Evan Green, e della sua fedele compagna di avventura, appunto Smilla, un bel meticcio nero di taglia media. Innanzitutto una domanda abbastanza tradizionale, quindi come nasce e cosa ti ha spinto a intraprendere questa idea del viaggio attraverso i canili d'Italia in compagnia di Smilla? E come mai hai scelto il sidecar, che poi ho visto che hai chiamato Ronzinante? Nasce intanto come sogno. Come nascono queste cose qui? Avevo letto di un'esperienza simile che era stata fatta negli Stati Uniti, un po' più in grande, perché era un viaggio che era durato alcuni anni. Così ho pensato di fare questo viaggio con Smilla, che è il mio cane, che è un cane che viene da un canile, con l'idea appunto di visitare rifugi per animali abbandonati, per cani, ma anche animali salvati dal macello, da situazioni comunque di sfruttamento, proprio per dare voce alle persone che si occupano di questi animali, ma per dare volto anche a questi animali che altrimenti non sono conosciuti. Il mezzo è stato il sidecar, perché è l'unico modo per portare decorosamente un cane in moto. Perché è consentito portare un cane col sidecar? La legge è lacunosa in questo senso, cioè in moto si può in determinati modi, cioè devi avere delle gabbie, delle cose così, in macchina ci sono altre regole, certo. Il sidecar non è considerato per la legge italiana. Io ho cercato di fare una cosa abbastanza intelligente, nel senso che ho montato una cintura di sicurezza all'interno del carrozzino dove viene legato l'imbragatura di Smilla, e quindi lei è completamente assicurata, poi comunque ha una capottina, il parabrezza, e quindi lei è riparata, insomma. Comunque è un mezzo particolare, sicuramente avrebbe attirato l'attenzione, avrebbe avuto un certo tipo di visibilità, no? È un mezzo gioiosamente fanciullesco, e quindi insomma. Direi che l'attenzione si è riuscito ad attirarla, e come, anche il libro vedo che sta andando bene, quindi sta andando in giro per l'Italia a presentarlo. Siamo contenti. Quali sono state le città che hai deciso di toccare, e soprattutto perché magari ne hai scelte alcune e non altre? Alcune associazioni le conoscevo, perché comunque questo è un tema che io frequento da anni, insomma, per mia passione. Alcune le conoscevo, altre mi sono state segnalate, alcuni mi hanno invitato espressamente. Avevo contattato molti canili del sud Italia, avevo preventivato non di arrivare in Sicilia, però di fare comunque Campania, Basilicata, Puglia e poi risalire verso l'Aquila da lì. Però purtroppo nessuno dei canili interpellati ha risposto né alle mail, tantomeno alle telefonate che ho mandato. Così, insomma, in base a queste segnalazioni e ai nomi che avevo io, ho messo giù un itinerario di massima, che comunque è partito appunto da Gorizia, che è la città dove abito io, il 26 luglio, e poi siamo andati verso Belluno, poi siamo scesi giù a Verona, da Verona siamo andati a Torino, e poi da Torino siamo scesi verso la Toscana, poi da Volterra siamo andati in Sardegna. In tutto questo, Smilla, come l'ha vissuto questo viaggio? Sono anni che viaggia con me, ha viaggiato in tutti i modi, in bicicletta, treno, in nave, in macchina, quindi lei è abituata a viaggiare al meglio delle possibilità, comunque tappe brevi e queste cose qui. E lei è stata assolutamente contenta, insomma, viaggiava molto bene, aveva un cuscinetto che era riparata dalle intemperie, insomma, molto più di me. Dalla Sardegna siamo ritornati, siamo andati a Roma, siamo scesi giù a Latina all'Aquila, e dall'Aquila abbiamo cominciato a risalire, siamo andati a Gubbio e poi la Repubblica di San Marino, Ferrara, e poi siamo ritornati a Gorizia il primo settembre, in occasione dell'ultimo giorno del Festival Vegetariano, che era il mio sponsor, il Festival Vegetariano di Gorizia, e noi eravamo praticamente l'ultimo evento dell'ultima giornata, il nostro arrivo in pompa magna con tanto di sidecar. Tu vai un po' oltre quella che è la questione dei cani, no? Tu fai diverse tappe, arrivi a Roma e vai al bioparco, vai a Volterra e partecipi alla cena Vega Leotta organizzata appunto durante il festival, dove la cena è servita dai carcerati, quindi cioè, si sente da parte tua la necessità di andare un po' oltre. Visitare i rifugi per animali abbandonati in qualche modo è un po' una metafora di come io vedo la vita, perché comunque per esperienza mia personale, avendo lavorato con carcerati e comunque con persone in difficoltà, ho fatto l'educatore in carcere, in questo lavoro che ho fatto negli anni passati comunque è sempre stato alle mie istanze di liberazione animale. Per liberazione animale io intendo la liberazione di tutti gli esseri viventi. Ma infatti io... L'idea che... Ecco, dimmi scusa. Nessuno può ritenersi libero finché qualcuno sarà prigioniero. Hai girato comunque moltissime città e hai visto diverse realtà. Credi ancora che il canile come struttura convenzionale possa essere la formula per risolvere la questione del randagismo fino a quando questa ci sarà? Non ritengo che la soluzione sia il canile, certamente, come non ritengo che la soluzione sia il carcere o il manicomio, insomma, capisci? Il canile è una soluzione di emergenza, bisogna partire da un discorso culturale che va dalla sterilizzazione dei maschi e delle femmine alla responsabilità, cioè responsabilizzare le persone che se si vive con un animale si vive per tutta la vita, non è un gioco, fa parte di un percorso un po' più ampio, insomma, ognuno di noi deve fare la sua parte. La sua piccola parte, no? che consiste nell'esempio, nella testimonianza, insieme di cose. Cioè, il fatto che io vada in viaggio con il mio cane in moto può significare anche che con il cane si può andare in viaggio come ci vuole, non ci sono scuse. Su Facebook c'è la pagina di Fai da Carmilla che parla solamente di quello, sia la pagina di Smilla personale dove scrivo io, perché lei ha provato a scrivere sulla tastiera ma non viene fuori niente. Francesca De Matteis per Restiamo Animali. Darkest clouds are in the sky. You mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Don't you realize you find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you. Con la puntata di oggi diamo vita a quella che potremmo definire una sottorubrica del pasto gentile e, citando il titolo di un film di James Ivory di qualche anno fa, iniziamo quel che resta del giorno prima. Non vi darò delle ricette vere e proprie, ma degli spunti, delle idee vegan per riutilizzare quei piccoli avanzi del giorno prima. Per esempio, da bravi ascoltatori di Restiamo Animali, avete sperimentato gli spaghetti alla carbonara vegan. Buoni, ma ne sono avanzati un po'. Invece di riscaldarli e mangiarli scotti o un po' incollati, provate a saltarli in padella e farne un tortino con della farina di ceci, ricetta che abbiamo già dato in una delle puntate passate, che troverete nel nostro blog. Sempre sullo stesso stile potete riutilizzare delle verdure lessate o stufate facendone un bel tortino di verdure. Oppure, le stesse verdure rimaste in frigo, potete mescolarle e coprirle con una besciamella leggera e gratinarle in forno. O ancora tritarle grossolanamente e mescolarle ad una besciamella bella soda. Aggiungete 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie e fatene uno sformato che cuocerete in una pirofila oleata e cosparsa di pan grattato. Anche la ricetta della besciamella di soia l'abbiamo data nelle puntate precedenti. Infine, dulcis in fundus, con questa concludiamo questa puntata. Avete preparato una torta per la colazione dei bimbi, ma dopo 2 o 3 giorni non l'hanno finita? Non è credibile, ma a volte è possibile. Tagliatela a quadretti piccoli e unitela ad un impasto per muffin, anche questa ricetta la trovate sul blog, e cuocete in forno. Otterrete un simpatico effetto roccioso, cioè dei dolcetti con delle piccole rocce di torta che spuntano fuori. Un ulteriore consiglio: se la torta avanzata è al cioccolato, fate dei muffin bianchi, magari alla cannella o alla vaniglia. Se invece la torta è bianca, i muffin fateli al cacao. Ciao e buon recupero! Sostiene Vallauri. Oggi vogliamo parlarvi di una vicenda che ha circolato nel mondo degli animalisti. È la storia di un agnellino nato con una deformità alla bocca che gli impediva di nutrirsi dalla madre. Questo neonato era destinato a morte certa, se non che l'allevatore si è preoccupato di questo individuo, ha fatto conoscere la sua storia e ha chiesto soccorso. Alcune persone hanno preso l'agnellino e lo hanno nutrito con un biberon, riuscendo quindi a salvarlo. È una storia a lieto fine che però cela un paradosso, perché i fratelli sani di questo agnellino nato con una deformità sono rimasti nell'allevamento e la loro fine è nota. Saranno macellati probabilmente per celebrare la prossima Pasqua. Professor Luigi Lombardi Vallauri, che cosa le suggerisce questa storia? Invecchiando, nonnificandomi, mi accade di subire sempre più le aggressioni interne, direi gli assalti della tenerezza. Cominciando ovviamente dalla tenerezza per i nipotini, per questi piccini destinati a vivere la vita umana e a viverla in un mondo che ho paura di immaginare. Ma poi sento la tenerezza quasi per tutti, quasi per tutte le vite. E certamente la storia dell'agnellino difettoso, con la bocca storta, incapace di ciucciare, rifiutato dalla mamma pecora e adottato da una mamma umana, fa tenerezza, struggente tenerezza. Forse la tenerezza è una variante un po' senile della Maha Karuna, della compassione universale buddista per tutte le creature, umane e non umane. Certamente l'agnellino difettoso è un'icona della compassione. Questa tenerezza per l'agnellino difettoso non deve però nascondere l'orrore della carneficina di agnelli chiamata Pasqua cristiana, carneficina alla quale i fratellini non difettosi sono destinati, tra breve. Ne ho già parlato qui a Controradio, il fatto che Gesù sia l'Agnus Dei, il nuovo agnello che prende il posto degli agnelli sacrificati per la Pasqua ebraica, non implica minimamente che in onore di Gesù si possano o debbano uccidere e mangiare ghiottamente centinaia di migliaia di agnelli fatti nascere apposta per essere uccisi da piccoli e mangiati. Non c'entrano niente con la morte e risurrezione di Gesù le mangiate di agnelli pasquali. Sono delle mangiate totalmente irreligiose. E l'ho detto anche l'anno scorso, visto che il Papa è l'amministratore delegato ufficiale della Pasqua cattolica e che questo Papa è un Papa di gesti più che di testi, gli chiederei almeno una visita fortemente mediatica a un mattatoio di agnelli pasquali. Gli chiederei di fare un passo avanti dalle periferie subumane di Buenos Aires che visitava alle periferie subumane degli allevamenti intensivi e dei mattatoi di agnelli pasquali. Meglio ancora, gli chiederei il coraggio di una smentita chiara, decisa, dottrinale dell'insegnamento dei suoi predecessori e della teologia animale ebraico-cristiana millenaria. Gli chiederei di dire: basta con la violenza festaiola delle carneficine motivate dalla liturgia. Segnaliamo due appuntamenti fiorentini che si terranno in due date consecutive nella seconda metà di marzo. Il primo appuntamento consiste nell'unica data toscana della tournée in Italia di Patrice Jones, famosa ecofemminista statunitense. Segnatevi la data, si tratta di martedì 18 marzo 2014 alle ore 19 in punto, importantissima la puntualità. Lo scenario della serata sarà il Bio Bistrò Miso di Riso in Borgo degli Albizi 54 Rosso, Firenze. Il costo della cena e della conferenza è di 20 euro. L'evento è organizzato dalla redazione di Restiamo Animali assieme a Intersezioni, un blog che si occupa di discriminazioni e disuguaglianze di genere, etnia, ceto e classe, con particolare attenzione alle minoranze sessuali. Prenotazione obbligatoria per email a restiamoanimali@gmail.com. Il secondo appuntamento è il consueto apericena culturale mensile presso la Casa del Popolo di Settignano. Segnatevi la data, si tratta di mercoledì 19 marzo 2014 alle ore 19 in punto. Il titolo della serata è La cucina e l'arte di disobbedire, a lezione da Eva. L'ospite, infatti, è Aida Vittoria Eltanin, autrice del più rivoluzionario libro di cucina, alimentazione e salute, intitolato La dieta di Eva. La serata avrà inizio alle ore 19, quando Aida Vittoria Eltanin terrà la sua lezione sul nesso tra l'alimentazione onnivora e la salute della donna, dai miti della dieta mediterranea al nesso tra latticini ed estrogeni. A seguire, dopo la conferenza, ci sarà la consueta gran cena salutista e cruelty free. Costo dei seminari e cena, non scindibili, è di 12 euro. Prenotazione obbligatoria via mail a restiamoanimali@gmail.com. Fotografia.